Marcella da Milano. Marcella. Buongiorno, io invece volevo raccontare un'esperienza inerentemente al team building. Nel cambio di dirigenza che c'è stato nell'azienda per cui ho lavorato fino all'anno scorso, il nuovo direttore vendite ha costretto a partecipare a una specie di campo paramilitare nell'agro pontino, nella palude pontina, quindi per essere bonificata la palude pontina, cioè sono passati i tempi di Santa Maria Goretti, ormai è bonificata, è un posto qualsiasi, non c'è più la palude, non so se delle aree protette di riserva, è un parco, sì, esatto, nel parco. Comunque vanno buttato nel posto peggiore che possa esistere da quelle parti, naturalmente. Credo proprio di sì, in mezzo alle zanzare e agli insetti di ogni tipo. Si è stati costretti a costruire dalla zattera per attraversare un lago, un laghetto maleodorante, puzzolente, in cui sono caduti più colleghi, a passare su ponti tibetani, insomma, comunque a... Ma chi faccia, dovete andare all'Isola dei Famosi poi? Qual era lo scopo finale? Lo scopo era il team building, non so in così, che modo, perché si era divisi soffrire a squadre e tutti bisognava collaborare alla costruzione della zattera, al passaggio sul ponte tibetano, a reperire gli elementi che servivano poi per costruire una specie di canotto con cui attraversare questo lago, remare tutti assieme in un certo modo, altrimenti l'imbarcazione che era imbarcazione. E poi basta, siamo tutti a casa buttando via gli abbigliamenti che abbiamo dovuto utilizzare, perché comunque erano tutti sporchi, infangati, deteriorati, strappati. Persone che remando si sono tirati colpi di hanno tirato colpi di remo al vicino, facendolo cadere in acqua con un trauma cranico. Era obbligatorio questo? Era obbligatorio? Era obbligatorio, sì. Io devo dire obbligatorio, che nessun contratto di lavoro può prevede che ci sia l'obbligo di andare a fare il percorso di guerra. Scusi, vanno fatto credere che era obbligatorio, nessuno poteva obbligarlo. È stato venduto come un aspetto di formazione per il team building.